RadioTube Social Network. Eccoci insieme allora con il nostro RadioTube Social Network, la seconda ora del nostro RadioTube in diretta. Abbiamo parlato nella prima ora, come sempre, di spettacoli, abbiamo parlato del commissario Montalbano, abbiamo parlato di serie TV da non perdere, di documentari da non perdere, soprattutto sulle piattaforme come Netflix, come Amazon Prime Video, perché insomma siamo un po' chiusi in casa in questi giorni, ma ci è venuta a trovare anche una donna straordinaria qual è Rita Pavone. Adesso, beh, la seconda ora, quella dell'attualità della rete dalla rete, è inevitabile. Parleremo moltissimo di coronavirus perché è l'argomento di cui si è parlato di più in rete, anche se il nostro co-conduttore di oggi dice che non ne sa nulla, però, ma adesso vi spiegherò anche perché lui spesso è chiuso da solo in una stanza con cuffia e microfono e ci sta per ore, per giusto qualche pausa per necessità fisiologiche. Telecronista di Eurosport e anche mio carissimo amico Andrea Campagna. Ciao Marta, ciao a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, hai detto che a febbraio hai fatto 100 ore di telecronaca. Quasi, sì, un centinaio di ore solo nel mese di febbraio. Di che sport? Di snooker? Soprattutto snooker, ma anche atletica leggera, abbiamo fatto diverse cose. C'è Filippo Aureggi in regia che sta esultando perché ti piace lo snooker? Le freccette le facevo un tempo, ecco, adesso non le abbiamo più. Anche le freccette più. Sì, hai sì, fatto sì. Un bravo, sacco. Un buon gustaio. Allora, quindi, quante ore al massimo riesci a stare in onda per fare queste telecronache? Non tengo un mio libro dei record, diciamo, anche se faccio sport. Però recentemente, 2 o 3 lunedì fa, adesso ho perso il conto perché abbiamo avuto troppe cose da fare questo mese, ho fatto 9 ore e mezzo circa nell'arco di 11 ore, una cosa di questo tipo. Ok, 9 ore e mezzo circa nell'arco di 11 ore significa che, detta proprio così, ogni tanto ti alzavi a fare la pipì, bere un bicchiere d'acqua, sì, tornavi indietro, giusto, e giusto tornavi... quello, perché abbiamo tra un frame e l'altro, diciamo, il game, no? Certo. La frazione, un minuto e mezzo, una cosa così. Ho avuto un'ora, quasi un'ora tra una sessione e l'altra, poi 6 ore e mezza di fila a partire dalle 2 di pomeriggio alle 8 e mezza, e ti posso dire, so cosa si pensa di lavori come il nostro, no? Sì, beh, simile, certo, cose. Che... quando è così è veramente faticoso. Io sono arrivato a casa, avevo l'acido lattico nelle gambe, più di quando vado a correre e corro 1 ora e mezza. Per beh, dire. Sì, insomma, effettivamente poi... E poi da solo? Da solo, sì. Da solo, a parlare da solo, immaginando che ci sia qualcuno. Certo. Di là, oltre questo specchio magico che è la televisione, però da solo, fondamentalmente parlando da solo. È un'esperienza anche quella. Per te quanto conta la rete, ad esempio, come fonte, la rete come interazione? Perché effettivamente ti occupi di sport un po' particolari, sì, anche sì. Nel tuo profilo di Twitter c'è ancora che ti occupi di tutto, basta che non siano calcio e motori. Cioè no, calcio e motori. No, sì. Calcio e motori. Sì, esattamente. Che non è solo che non me ne occupo, proprio non li seguo. Che non li segui. Non mi interessa niente. Personaggio, sai. Sì, sì, no, per me la rete è fondamentale, e soprattutto come fonte di informazione. Da un certo punto di vista Twitter ha sostituito la rassegna siti, no? Certo. Per chi fa il lavoro come mio, per chi lo intende come lo faccio io. Io seguo determinati account, persone o siti o quello che è, istituzioni, e da lì mi arrivano direttamente le informazioni che mi dovrei andare a cercare mano a mano, con un processo più lungo, più lento e meno, come dire, meno efficace, ecco. Allora, io so che appunto sei rimasto molto chiuso in studio in questi giorni, sì. Tra l'altro senza anche il problema del contagio, perché sta chiuso da solo, effettivamente. Ma anche a casa non è che cambi molto. Sempre sta chiuso, quindi è un anacoreta, ti abbiamo tirato fuori oggi dal tuo antro. Quindi lo sai, vero, che allora il gesto più importante che hanno imparato a fare anche quelli che non lo facevano è lavarsi le mani. Sì, io l'ho sempre fatto. Ma sarò strano, ma l'ho sempre fatto. Ma chissà se l'hai sempre fatto bene, perché in televisione, okay, Barbara D'Urso, okay, ha spiegato come ci si lavano le mani. Ecco qua. Io ho imparato come ci si lava le mani. Allora, le mani bisogna lavarle innanzitutto per 1 minuto. Quindi voi 1 minuto... fate così, guardate, io ho imparato questo, bisogna lavare bene così, naturalmente, palmo contro palmo, poi bisogna, guardate, così, cioè faceva proprio, devo dire, ha fatto un, secondo me, il suo pubblico ha imparato qualcosa che magari non aveva. Questa è la terza fase. Effettivamente ci sono tutte le fasi, i movimenti, no, le cose. Non metto in discussione. Sì? Ce l'ho sempre fatto, in teoria. No, anzi, mi lavo fin troppo. Ecco. Ecco, allora, però devo dire che questi volti familiari e rassicuranti, no, è vero, della è vero, TV, ci sta. Secondo me ci stanno, sì, e servono. E io approvo anche moltissimo l'utilizzo come testimonial di Amadeus. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo. Devo dire che l'utilizzo di testimonial estremamente popolari e pacati ci sta. Sì, sì, sì, ci sta, niente ci da sta, dire. Ci sta. Poi soprattutto Amadeus dopo Sanremo, quindi una persona che è stata nelle case di tanti italiani per tante sere, io ho approvato questa scelta. Allora, però cosa dobbiamo dire? Che in questo periodo i media sono stati tanto nel mirino perché hanno creato allarmismo. Io ho fatto sui social, ho fatto un po' quella che difendeva i giornalisti per una ragione molto molto semplice, perché si sono ci siamo occupati tanto di coronavirus, anche perché ogni mezz'ora c'era una conferenza stampa, parlava uno, parlava l'altro, uno diceva una cosa, e quindi era anche un continuo. Io magari, cioè io in questi giorni ho scritto e condotto molti giornali radio, ogni ora c'era qualcuno che parlava, e soprattutto secondo me tanti governatori di regioni, tanti hanno cercato di essere molto presenti per mostrare di essere presenti, e devo dire che ci sta anche, però qualcuno ha fatto anche delle gaffe, e questo è quello che è successo in Veneto. Sai perché noi possiamo in questa, dopo una settimana, 116 positivi, dei quali 63 non hanno sintomi, stanno bene, certo, e ne abbiamo solo 28 in ospedale? Sai perché? Perché l'igiene che ha il nostro popolo, i veneti, i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo è quella di farsi la doccia, di lavarsi spesso le mani, di un regime di pulizia personale che è particolare, anche l'alimentazione, la pulizia, le norme igieniche, il frigorifero, le scadenze degli alimenti. Lei dice, ma cosa c'entra? C'entra perché è un fatto culturale. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere. E i topi vivi? I topi, non l'avevi sentito? I topi vivi? È forse un... È un po' forte. È un po' forte. È un po' forte. Allora, io sono stata in Cina, ho visto moltissimi animali che non avrei mangiato infilzati su spiedi, non topi, però erano cotti. Erano cotti. Erano cotti. Vivi. Erano cotti. Vivi non credo. Anche perché io già lì mi immagino il cinese che corre perché i topi corrono. E i topi c'è corrono. Cartoni animati, no? Dai. Vabbè, insomma, noi sorridiamo perché adesso sorridiamo, ma questa cosa ha creato anche giusti malumori da parte, ad esempio, dell'ambasciata cinese. Vabbè. È successo così. Quando si parla molto, poi alla fine succedono queste cose. Perché magari non abbiamo detto io o te. Ecco. E invece questo è successo in Regione Lombardia. Quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo, non spaventatevi, sono sempre io, anche se sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione. Ma io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo. Il governatore della Regione Lombardia con la mascherina, perché una collaboratrice è risultata positiva al coronavirus. Devo dire, anche lì con un sindaco di Milano che sui social mette Milano non si ferma, la maglietta Milano non si ferma, ma il governatore della Lombardia con la mascherina perché c'ha la collaborazione. Non sappiamo più cosa... È difficile. Dice che sono pazzesca, sarà il fascino della tedesca. Ah, ma così mi parte Mischeta così? Ah, va bene, va bene, va bene. Ci ha fatto partire... Mi hanno censurato, giustamente. No, sai che secondo me Mischeta, che giustamente è pazzesca con la sua mascherina, ci aveva visto giusto, ci sta dicendo che dobbiamo andare in viabilità? Dai, allora, su Mischeta andiamo in viabilità perché in realtà sono 17-16 minuti e poi ci ritroviamo ancora con Radio TV Social Network. YouTube Social Network. Eccoci qui ancora insieme con il nostro co-conduttore stacanovista dello sport, telecronista di Eurosport, Andrea Campagna. Andrea, è arrivato un messaggio al 349-238-6666 su WhatsApp. Finalmente qualcuno a cui non frega niente di calcio e motori, ecco. Ma non ho capito cosa segue. Allora spieghiamo, allora, di che telecronache fai. Allora, io nasco come, so che è strano in Italia, nasco come commentatore di football americano. Okay. Le mie prime telecronache Eurosport erano state di football americano, perché è lo sport che ho praticato per tanti anni e diciamo è quello che seguo di più in generale. Sono entrato come seconda voce, poi sono passato prima voce, hanno capito che seguivo anche altro, mi hanno fatto lavorare. Adesso principalmente a livello di ore di commento, senza ombra di dubbio, seguo lo snooker, che è il biliardo inglese, britannico diciamo. Faccio l'atletica leggera da un paio d'anni, la commenterò ai Giochi Olimpici, Eurosport è broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici, faccio un po' di ciclismo, vari ciclismi, non solo quello su strada, l'ho fatto di tutti i tipi, ma in generale diciamo che mi riassunto il mio personale curriculum vitae a livello di telecronista sportivo è ho commentato tutto, persino il calcio. Ah, persino il calcio. Luca, che ci ha scritto, sarà contento di questo persino. Allora, hai detto Olimpiadi di Giappone, Olimpiadi di Tokyo, sì. C'è anche lì molta preoccupazione. Se ne parla negli ambienti. Se ne parla, come saprai, sono stati cancellati un numero ormai altissimo di eventi in Cina, anche riguardo anche noi direttamente. Lo snooker, c'è un tradizionale torneo prima del mondiale che inizierà il 18 aprile, tra fine marzo e primo aprile. Un tradizionale torneo a Pechino che è stato cancellato, come in tanti altri sport. Su Tokyo ancora il Comitato Olimpico Internazionale dice che non c'è problema, però i problemi, come sai, vabbè, navighiamo anche a vista. Navighiamo a vista, bravissima. Navighiamo a vista, anche perché insomma, effettivamente ne parlavamo oggi in mensa, diciamo, se cioè il pensiero che ci possano essere a rischio le Olimpiadi di Tokyo, che saranno la prossima estate, vuol dire che dobbiamo prevedere dei disagi per molti mesi. Preferiamo, insomma, così pensarci meno in questo momento. A qualcuno dice: non dovreste raccontare bugie, vergognatevi di video mangiati di cinesi, di topi vivi e morti e crudi, ne è pieno di video la rete. Io non li avrei comunque guardati, perché sono terrorizzata dai topi, ma non lo so, non mi risulta, però può darsi, non si sa mai, magari appunto, sì. Non lo so, magari sono una prelibatezza della quale io non voglio sapere nulla. Sono Roberto e non sono d'accordo con l'uso di questi personaggi che utilizzano certe frasi del tipo dai insieme ce la facciamo, ci danno proprio l'idea che stiamo quasi per morire, cavoli. Beh, che dire, era lo slogan di Amadeus, su cavoli. No, non ho censurato, c'era scritto davvero cavoli, perché fosse tutta un'altra roba l'avrei letta. No, dai, io non l'ho trovata apocalittica, cioè no. Mi sembrava, effettivamente, dopo i giorni dei supermercati svuotati ci stava. Io credo che non dovrebbe esserci bisogno, secondo me, cioè lavarsi le mani, non dovrebbe esserci bisogno di dirlo, però... Una cosa in più è meglio di una in meno. Abbiate più rispetto di Zaia, che tra l'altro dice la verità, siete dei paraculi del PD, arroganti. Ma povero, ma ho anche detto che secondo me gli è scappata perché aveva parlato troppo in quei giorni lì, dai. No, vabbè, dai, vabbè. Allora, ci ascoltiamo un po' di interviste, ce le ascoltiamo un pochino di interviste, perché la rete è piena non solo di video di topi mangiati, no, sto scherzando, la rete è piena di meravigliose interviste di televisioni locali, che sono poi... Cioè, il telegiornale locale è veramente una ricchezza del nostro paese, che è così vario di lingue, di sensibilità, di dialetti. Ad esempio, come è stato preso il coronavirus dai baresi? Andrea, senti qua. C'è da cattella, che il gesto che era una figura, ha chiuso l'influenza, che sono una piscosa. No, non l'ho comprata. Non l'ho comprata, no. Perché secondo me, cioè, non lo so. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. È perché tutto questo allarmismo che stanno dando, la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma basta lavare le mani, secondo me. Sì, ho già fatto. Ho preso ieri la mucchina qui, non solo moda. Ne vale la pena. È uno sfruttamento che vogliono fare. Quando vuol venire questa malattia? Venisse. Sono tutte stupidaggini, perché è giusto per smaltire un po' di roba vecchia. Io sono mangiato le cozze quando stavo u colere, cozze, polpe, pesce. Beh, lei è straordinaria. Cioè, cosa vuoi che gli faccia il coronavirus? No, effettivamente. Allora, altro personaggio che io ho adorato questa settimana, che ho trovato in rete, il signore Toscano, intervistato da una troupe locale. Posso fare una domanda? Ma è un po' allarmato lei per questo discorso del coronavirus? Mi importa una sega. Mi importa una sega. Stiamo applaudendo. Perfetto, grazie mille. Ma tanto se deve venire, viene, è inutile stare a fare tanti discorsi. Okay. Poi ho quasi 85 anni. Le mascherine me le metto quando fo le rapine e basta. Numero uno. Io sono impazzita, a volte mi importa la sega, proprio così, capito? E poi ho 85 anni, le mascherine le metto quando fo le rapine. Vabbè ragazzi, no, la scorsa settimana, che eravamo ancora agli albori della psicosi, avevamo mandato in onda i veneti che dicevano: noi abbiamo l'alcol che ci difende, che ci protegge. Vabbè, insomma, prendiamola così, con anche, adesso non è per minimizzare, con un filino di ironia, non è per buttarla in vacca, ma è per, insomma, cercare di fare le cose che vanno fatte e capire le cose come vanno capite per bene. Allora, io vorrei, siete la radio della Confindustria, moderatevi con le parole. Forse era per cavolo? Boh. E forse era cavolo che non dovevamo dire. Allora, era cavoli, forse perché era plurale. Ah, cavoli, perché plurale era un po' troppo. Era un po' troppo, effettivamente. Poi Radio 24, che è una radio che è così pulita tutte le ore, soprattutto allora verso cena, è effettivamente incomprensibile. Allora, prima di introdurre il nostro ospite, vorrei farvi sentire cosa ha postato questa settimana nelle stories di Instagram. Me l'ha segnalato l'amico Giulio Pasqui di Webbo. Uno youtuber che si chiama Social Boom. Eccolo qua. Siamo partiti per Codogno, cercando ovviamente di entrare e di vedere cosa successe all'interno di quella che viene chiamata zona rossa. Vi dico da subito che io mi aspettavo soltanto una pattuglia all'ingresso della strada principale, e invece ci sono 8 cerchi di volanti che ogni volta fanno un controllo per far vedere chi passa e chi non passa. Fondamentalmente, usciti dall'autostrada, abbiamo beccato il primo cerchio. Cosa è successo dopo? Passato questo primo cerchio che ci stava venendo incontro, ma siamo riusciti un attimo ad aggirarli, ho scavalcato e sono riuscito a passare oltre. Raga, non so se si vede, lì ci sono le volanti, le luci blu, siamo riusciti a scavalcare da qui, passando da questo cancello, e ora siamo dentro alla zona rossa. Allora, la prima considerazione era vabbè, uno stupidino, va bene questo aggettivo, perché l'altro era un po' uno stupidino, perché queste cose non si fanno neanche per fare gli splendidi, sì, su YouTube, cioè che violi la zona rossa, ma proprio perché è una questione di salute pubblica. Poi nel pomeriggio sai cosa ho visto? Un'agenzia che diceva che il tizio è stato denunciato anche perché era una finta, non era nemmeno entrato nella zona rossa. E quindi? E quindi praticamente procurato allarme, okay. Cose. Cioè, ragazzi, si sta perdendo il senso della misura. Da una parte e dall'altra, in generale. Vabbè. Comunque. Vabbè. Allora, è un momento in cui la cosa più importante è cercare di capire come stanno le cose, cercare di utilizzare fonti attendibili, perché lo abbiamo detto. I giornali sicuramente hanno esagerato nel seguire tutte le conferenze stampa, tutti i discorsi, chiunque voleva dire la sua e c'erano delle telecamere alle spalle, ovvio, l'abbiamo detto. Ma nonostante tutto questo arriva sempre il messaggio su WhatsApp di quello che ne sa di più, i messaggi, c'è un contagiato nel paese, ce lo stanno tenendo nascosto. Allora l'attività dei debunker, dei cacciatori di bufale, è quanto mai utile, utilissima, indispensabile in questo periodo, e io sono molto contenta di avere in linea quello che per me è un'autorità. Sapete che se seguite RadioTube per me lui è proprio un'autorità massima, Paolo Attivissimo. Buonasera Paolo. Buonasera, grazie. No, lo sai che per me sei, cioè per me Paolo Attivissimo è Cassazione, Andrea. No, Cassazione. Conosco. Ciao, buonasera. Ogni volta che qualcosa non mi suona, perché c'è il campanellino d'allarme vi deve suonare, io vado a controllare Paolo Attivissimo, che di solito mi dà una risposta. Allora, Paolo, in questo momento quanto hai dovuto lavorare per tracciare la linea tra le informazioni vere, la cattiva informazione, la troppa informazione, le bufale tout court? Tanto devo dire, non quanto molti miei colleghi, per fortuna mia, sfortuna loro, perché questo è un lavoro che va fatto in squadra, non basta un debunker, ma bisogna darsi da fare, perché dall'altra parte ci sono fabbriche di fandonie che lavorano a getto continuo. Oggi le fake news non sono soltanto la persona che manda in giro un pettegolezzo, sono vere e proprie attività industriali, sono attività che generano dei ricavi economici. Ogni volta che noi riceviamo un allarme, lo condividiamo, postiamo qualche cosa attraverso i social network, qualcuno guadagna su queste nostre attività. E se si riesce a fare qualcosa di sensazionale, come il video che avete descritto e fatto sentire poco fa, si ottiene esattamente quel risultato. Si diventa visibili, si diventa popolari e da lì arrivano prima o poi gli incassi. C'è anche la propaganda, perché teniamo presente che oggi viviamo in un mondo nel quale molti paesi hanno capito che costa poco fare disinformazione e indebolire il proprio avversario. È sicuramente più efficace rispetto a un'invasione armata come i vecchi tempi. Quindi dobbiamo fare moltissima attenzione per non finire in una trappola, cioè quella di diventare noi stessi come cittadini i soldati dell'avversario, attraverso il fatto che mandiamo in giro fandonie o storie che comunque non abbiamo modo di verificare. È pazzesco questo fatto che in questo periodo ci sia talmente tanta sfiducia nei confronti delle informazioni che poi sono verificate, che poi per cui sì, il telegiornale ha detto che, ma io non mi fido e dunque svuoto i supermercati. Sì, questo è un meccanismo frequentissimo e chiariamo subito che non è colpa di internet, perché esattamente lo stesso fenomeno, qualcuno che ha qualche anno sulle spalle se lo ricorderà, ci fu durante la guerra del Golfo, certo. Appena ci fu un coinvolgimento da parte dell'Italia, corsa ai supermercati con questa scenetta anche abbastanza bizzarra della corsa, dell'accaparramento della carta igienica. Sì, magari adesso abbiamo WhatsApp e il WhatsApp ci arriva più facilmente del parente che ti dice la farina, la carta igienica. C'è arrivato un messaggio che dice, lo sto cercando perché è arrivato, svuotano i supermercati, le farmacie, siamo in piena psicosi da virus, da stronzi, però c'è scritto e lo leggo, grazie ai giornalisti. Nessuno ha mai detto svuotate i supermercati, però insomma, anzi, fin dall'inizio era lavatevi le mani, cioè erano molto chiare le istruzioni date, però è successo lo stesso. E infatti questo è un comportamento tipico, qui non siamo più in realtà nel campo del debunking, ma siamo forse nel campo della psicologia. Quando c'è una situazione di allarme c'è un fortissimo bisogno di fare qualche cosa, magari questo qualcosa non serve assolutamente niente, però dà soddisfazione, perché star fermi e non fare nulla sembra di cercarsela un po', invece faccio questo gesto, vado a comprare una scatola di penne lisce, quelle che non vuole nessuno, nel supermercato e me la porto a casa, mi sento di aver fatto qualche cosa. È lo stesso motivo per cui in molti casi si fa la corsa alle mascherine, per queste mascherine che ci si mette sul volto. La loro efficacia sarebbe tutta da spiegare attraverso le parole competenti di un medico, ma in molti casi si tratta semplicemente di gesti quasi a livello della scaramanzia. Mi sono coperto il volto, quindi sono a posto. Non funziona così, purtroppo. Intanto è arrivato al 3-4 al sorrido, perché è arrivato e soprattutto non mangiate topi vivi. Allora, no, smettetela di mandarmi foto di topi su WhatsApp, ve l'ho detto. No, io ho la fobia dei topi, non mi mandate foto su WhatsApp per cortesia. Facciamo una brevissima pausa. Paolo, stai con noi e saremo ancora insieme a Radio Tube Social Network. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Mi importa una sega. Radio Tube Social Network. Gli italiani hanno paura del coronavirus e quindi si è scatenata la caccia a tutti quei prodotti che servono per disinfettarsi le mani quando siamo in giro. Purtroppo questi sono praticamente scomparsi, ma girano ormai sul web, su Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, una serie di ricette fai da te che non sono assolutamente validate. Vi voglio far vedere la ricetta ufficiale per preparare un prodotto per disinfettarsi le mani, data direttamente dall'OMS, cioè dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E questo era il vostro chimico di quartiere Dario Bressanini, che ha fatto questo video su YouTube per come si fa il disinfettante fai da te. Accanto a me il co-conduttore di oggi, poco esperto di coronavirus, ma te le stiamo raccontando tutte. Sto imparando Andrea molto. Campagna, certo, perché lui è poco esperto di coronavirus perché ha passato tutto febbraio chiuso a commentare a Eurosport, soprattutto snooker. Soprattutto snooker, ma non solo. Però ci hai detto che effettivamente un torneo di snooker è stato cancellato. Sì, sì, sì, il China Open doveva iniziare il 30 marzo, ultimo torneo prima del mondiale, e fa parte di quella lunghissima lista di eventi sportivi internazionali e non, perché in Cina è tutto bloccato adesso, compreso lo sport locale, locale per modo di dire, parliamo di un continente nazione, diciamo. Ancora i topi. Ciao Marta, a proposito che in Asia qualcuno mangia i topi vivi, ti inoltro i video che a mia volta non li voglio, non mandatemi video, non mandatemi le foto, non mandatemeli. Non apro questi messaggi perché ho la fobia dei topi. Ancora con noi collegato, chiocciola disinformatico, Paolo Attivissimo. Ciao Paolo. Ciao, ciao. Allora, ma anche in Svizzera circolano i WhatsApp con i meme dei topi, con i meme del coronavirus, perché alla fine, come dire, cioè, un po' per sopravvivere, un po' di ironia la si fa. Sì, sì, anche qui in Svizzera c'è l'umorismo che cerca di, come dire, togliere un po' di pressione, anche perché dobbiamo tutto sommato usare la nostra umanità per contrastare queste cose. Vero. Teniamo presente che non siamo soltanto noi adulti che discutiamo di queste cose, ma ci sono i bambini che ascoltano e cominciano a vedere, i genitori che non parlano altro che di queste cose, e si fanno ovviamente delle preoccupazioni che possono anche essere molto dolorose. Per cui l'umorismo è sempre una buona tecnica di difesa. A proposito dei topi, è interessante vedere forse la varietà. Innanzitutto, molti dei video che girano, che riguardano questo fenomeno, sono o simulazioni o sono, come dire, delle sfide, come è capitato per esempio anche a Ozzy Osbourne, il cantante rock che si è ammorsicato alla testa del pipistrello. Ma non è che tutti i cantanti rock vanno in giro a morsicare pipistrelli, ecco. No, non è un'abitudine. No. Molto spesso questi video vengono usati come pretesto per dire: ecco, vedi, tutti i cinesi sono così, e questo purtroppo apre un po' le porte al razzismo. È un po' come se in Cina ci fosse qualcuno che manda in giro i video di quelli che mangiano le capsule, le tavolette del detersivo per sfide, dicono: guarda, gli occidentali sono tutti che mangiano detersivo. Ovviamente c'è chi specula su queste cose, però cerchiamo di guardarle semplicemente per quello che sono: delle reazioni comprensibili, ma da bloccare, a una situazione che ci sta preoccupando tutti. Quindi il mio consiglio da debunker è semplicemente: è inutile perdere tempo a cercare di verificare uno per uno ogni foto, ogni video, ogni audio WhatsApp. Partiamo da un presupposto molto semplice: sono falsi fino a prova contraria, e se non sono falsi sono molto probabilmente modificati rispetto alla realtà. In questo caso, quindi, che senso ha mandarli in giro? Se vogliamo combattere la paura, la cosa più semplice è non alimentarla. Per non alimentarla, la cosa più semplice è non condividere. Paolo, hai parlato di video manipolati. Qualche giorno fa tu, tra il serio e il faceto, dicevi: non c'è ancora il deepfake di Zaia che mangia il topo. Spieghiamo ancora una volta cos'è il deepfake, che è, la battuta è carina, il concetto è allarmante. Cioè, i deepfake sono una realtà già possibile, cioè il confezionamento di un video che sembra reale, ma in realtà che non lo è. Io faccio sempre questo esempio: è come se si prendesse un film porno con un'attrice porno e ci si mettesse la mia faccia, e sembra, non c'è la faccia ritagliata sopra, sembra davvero che io stia recitando in un film porno. In questo caso non solo è sicuramente falso, perché non lo farei mai, ma in questo caso probabilmente l'attrice avrebbe un fisico straordinario che io non ho, e dunque il deepfake sarebbe subito smascherato. Ma al di là della battuta, ci potrebbero davvero un domani essere dei deepfake che noi ci condividiamo su internet come prova, su internet, su WhatsApp, su quello che è, come prova di una tesi che stiamo sostenendo? Non è fantascienza, Paolo? No, assolutamente non è fantascienza, perché dal punto di vista tecnologico è già una cosa perfettamente fattibile. Non si fa, almeno non è stato fatto fino adesso, semplicemente perché non ce n'è stato bisogno. Basta rimontare ad arte un video reale, basta presentare appunto un mangiatore di topi vietnamita dicendo che invece è cinese, e la gente ci casca. Ci casca un po' perché queste storie funzionano sulla base dei nostri pregiudizi, vogliamo credere che quella storia sia vera, e quindi sospendiamo un po' il nostro metro di senso critico, di giudizio, di valutazione. Per cui sì, volendo potremmo certo aspettarci di trovare Zaia in un deepfake che mangia un topone, ma in realtà non ce n'è bisogno. La cosa già si alimenta così, semplicemente mandando un meme, un fotomontaggio o una battuta. Allora, c'è questo audio che è stato condiviso tantissimo su WhatsApp in questi giorni. Paolo, te lo faccio sentire, perché non so se l'hai ancora sentito, perché appunto stai poco oltre confine, perché stai in Ticino, però potrebbe esserci una circolazione diversa delle battute su WhatsApp. A me è stato mandato, io ho riso tantissimo, non so chi sia l'autore, lo stesso Luca Bizzarri stava cercando l'autore di questo audio, non so se c'è riuscito nel frattempo, ma io controllavo ieri, non l'aveva ancora trovato, magari voi lo conoscete. A te, Andrea, è arrivato un audio particolare su WhatsApp? Ma la gente non me le manda. Vabbè, perché tu sei serio, sei chiuso lì a fare le telecronache. Eccolo qua. Taci, ridendo e scherzando. Stamattina facevo servizio in Piazza Duomo, ho parlato con un carabiniere che suo nipote, o meglio un amico di suo nipote, che gioca a basket con una ragazza il cui padre lavorava per un'azienda dove hanno anche un settore, che sta in un'altra città, però hanno un settore che lavora con la Cina. C'è stato un amico di un loro dipendente che lavora per una succursale in Belgio, che è rientrato dalla Cina 20 giorni fa, e il figlio di questo tizio che è rientrato, che gioca a basket in una squadra lì in Belgio. Questa squadra ha fatto una trasferta in Svizzera per un amichevole, e un ragazzo di questa squadra svizzera, il papà di un ragazzo che gioca in questa squadra svizzera, che lavora per una multinazionale, credo svizzera, comunque di medicine, ha parlato con un suo capo della casa madre che sta in Germania, e gli ha detto, questo qua che conosce un tizio, parlando telefonicamente, c'è cioè un suo amico, non so se a livello di lavorativo o meno, che abita in Grecia, che però non mi ricordo che cazzo gli ha detto. È geniale. Paolo, tu l'avevi sentito? Io lo trovo straordinario, perché io me lo stavo proprio, cioè quando me l'hanno mandato sembrava serio. No, straordinario, bellissimo. È bellissimo, cioè secondo me, notevole. Cioè fa veramente capire poi alla fine com'è il meccanismo, cioè un po' succede così. Assolutamente, una delle cose caratteristiche delle leggende metropolitane, degli allarmi, è sempre il fatto che c'è di mezzo l'amico, del cognato, del cugino, del parente, dell'amico, del dipendente. È una catena di Sant'Antonio nella quale nessuno dei partecipanti si è fermato a fare la cosa più semplice, verificare. Esatto. Non lo fa nessuno, ci si fida. E anche questo è un meccanismo molto umano, non sto facendo, non voglio fare ramanzina a nessuno, siamo tutti esseri umani, tendiamo a comportarci tutti in questo modo. Per cui invece dobbiamo fare un passo indietro, essere un po' più razionali, meno emotivi, e dire: ma se questa cosa mi arriva da un amico, questo mio amico l'ha verificata, se non l'ha verificata la fermo, non la mando in giro, a meno che non sia una cosa divertente. Ecco, questo è un caso infatti, divertente, ci stava. Infatti, dai. Questa ci stava, io l'ho trovato irresistibile, perché divertente, però... Perché parte serio, sembra sì, una cosa seria. E poi coglie nel segno, che c'è sempre un cugino che ti ha detto, poi a un certo punto dice... No, ma poi il giro d'Europa è bellissimo. Sì, che in Svizzera, non so che sera in Svizzera, ma è una roba di medicine... Bellissimo. Vabbè, Paolo, c'è qualcuno che ci dice: ma come si fa a ridere, come si fa a non avere paura quando le borse mondiali crollano? Almeno cerchiamo di non andare nel panico, Paolo, cosa dobbiamo dire? Assolutamente, noi siamo, creature che sanno resistere alle sfide più impensabili. Abbiamo superato guerre mondiali, drammi nucleari, terremoti, catastrofi di ogni genere. Perché l'abbiamo fatto? Non soltanto perché ci siamo aiutati l'un l'altro, ma anche perché non abbiamo perso l'umanità, il senso dell'umorismo. E alla fine, se devi comunicare soprattutto con le persone più giovani e sensibili, magari farlo con un sorriso invece che con l'angoscia continua perché hai perso un punto in borsa, lo spread e tutte quelle altre cose ti stanno facendo angosciare. Come se tutti avessimo investito in borsa, per l'amor del cielo. Sembra abbastanza bizzarro. Per cui... io davvero raccomando un passo indietro, un attimo di relax e magari andiamo a fare qualcos'altro. Io ho consigliato qualche tempo fa, postate gattini. Funziona, ecco, meglio. Non i topi, gattini, non i topi, basta topi. Grazie al disinformatico Paolo Attivissimo, giornalista informatico, cacciatore di bufale, conduttore dell'amata Radio Svizzera, ma soprattutto andatelo a trovare su disinformatico.info. Grazie Paolo per essere stato con noi. Grazie a voi. Andrea? No, volevo fare una domanda a Paolo. Accidenti, vabbè, gliela scriviamo su Twitter. Ho superato il tempo utile. Chiocciola disinformatico, gliela scriviamo su Twitter, dai. Facciamo viabilità, che siamo in ritardo, tra poco. Ciao, dimmi. Quanta fai a mugina? 100 euro. Ma fatta a piangere il culo, va. Radio Tube Social Network. Ho paura, di coro. Coronavirus. Tutti sanno che ho paura di coro. Coronavirus. Un sacco di gente in Cina sono stati contagiati. Allora, io non so se Andrea tu conosci questo rapper, no. Che è Bello Figo Gu. Che peccato che non siamo in televisione, perché bisognerebbe guardare l'espressione di Andrea Campagna tra lo smarrito e l'incredulo. Sì, lui era quello che cantava "Io non pago affitto". Vabbè, adesso ha fatto una canzone sul coronavirus. Io mi immagino che Cruciani la manderà allo sfinimento, perché lui è un grande fan di Bello Figo Gu. Anche Bello Figo Gu ha fatto la sua canzone sul coronavirus. Prendo atto. Prendi atto, eh. Sì. Effettivamente poi ha tutto un suo stile molto efficace. Ci sono moltissimi video di youtuber che hanno parlato dell'emergenza. Lo dicevamo prima, no? I personaggi della televisione che rassicurano, che insomma cercano di farci tenere la barra dritta. Anche gli youtuber che hanno un pubblico completamente diverso lo fanno. Questo è il caso, sicuramente lo conosci, del milanese imbruttito. Sentito nominare. Vabbè, perché tu poi non sei milanese, ma anche se ormai sei di Parma, ma sei diventato milanese imbruttito anche tu. Dai, un pochino sì. Sull'imbruttito non ne riparliamo, però vabbè, dai. Un po' milanese sì, dai. Sentiamo il milanese imbruttito. Cari imbruttiti, questa week è davvero insolita per la nostra city. Lo so, ci rendiamo conto che il problema è reale e che non va preso assolutamente sotto gamba. Ma è anche vero che noi imbruttiti abbiamo uno sguardo proiettato verso il futuro e ci piace vedere il bicchiere mezzo pieno. Per cui oggi sveliamo gli aspetti positivi di questa new situation. Mobilità. In questi giorni Milano sembra di essere a Ferragosto. Si parcheggia ovunque. Si riesce a fare il giro della circonvalle in meno di mezz'ora, anche in 20 minuti. Gli sbatti. Puoi rimandare gli appuntamenti inutili dicendo: oh, ci aggiorniamo dopo il coronavirus. Praticamente come Natale, però siamo a fine febbraio. La spesa. Adesso i super a Milano sono tutti già free, perché hanno fatto le scorte per 7 anni. Quindi niente ingorghe nelle corsie, poca coda alla cassa. Che poi, che cazzo te ne fai di 70 kg di fusilli? Il jolly! Se non hai un cazzo da dire, invece di parlare del meteo, puoi sempre dire: oh, ma sto coronavirus? Oppure, in alternativa, lamentarti. Però, oh, che due coglioni, non si parla d'altro. Ma di figa, non si parla più. Comunque, imbruttiti, in attesa di dire che anche questo coronavirus ce lo siamo tolto dai coglioni, vi ricordo, non facciamoci prendere dal panico e usiamo la meno nera. E vedrete che a colpi di fatture il virus ce lo togliamo dal cazzo, perché a Milano lei è un gran Milan. Tac! Ottima, signore imbruttito! Ma tu non dovevi lavorare da casa? E non ho internet. Ma figa! Vabbè, insomma, almeno devo dire questo fantastico milanese imbruttito che ci parla anche dello smart working che stanno facendo in tanti, e io non trovo traffico, e questa cosa mi fa molto piacere, ma insomma... Io non guido, quindi è vero, risolvo il problema. Tu prendi la metropolitana con o senza mascherina? Senza, mascherina, dai. Lasciamo le mascherine per quelli che ne hanno bisogno. Sì, dai. Allora, chi ha le basse difese immunitarie. Esatto, Arianna Vernini che mi manda delle foto meravigliose di dolcetti su Twitter, niente topi, dolcetti mentre ti ascolto, li hai fatti tu, che belli! Mamma mia, poi a quest'ora, 17:51, mi viene anche un po' di quella famina. Ah, un altro video nelle tendenze di YouTube, cartoni morti. Vabbè, non ti preoccupare, non è niente di grave. Ok. Sempre meglio dei topi vivi, no? No, ma adesso, ieri un tipo alla Zanzara ha detto di aver assaggiato in Cina i topolini tre grida, specialità tipica. Un mio amico ha postato il video, ma ragazzi, ma no, non voglio saperle queste cose. Sentiamo i cartoni morti. Signor Anastasio, lei risulta positivo ad una malattia molto contagiosa, OrcoCan. È fondamentale che lei ci dica chi ha incontrato negli ultimi giorni, in modo da arginare il più possibile il contagio. Ricordo di aver pranzato con un amico. È bene che questo amico venga in ospedale per un controllo. Va bene, ora lo chiamo. Ah, e dopo pranzo sono andato a fare un corso di yoga. Yoga? Quanta gente c'era? Non so, una decina di persone. Dovremo contattarle tutte. E dopo yoga sono andato a fare un giro a Venezia. Ho fatto un giro in piazza San Marco, c'era un sacco di gente per il carnevale, ma ci sono rimasto poco perché poi ho preso il treno per Milano. Ho girato tutta la città in metro, poi ho fatto un salto a Torino al Museo Egizio, una fila. Sono andato a Firenze per un corso di degustazione vino, ho preso una barca e sono andato in Sardegna. C'era la sagra del maialetto, tantissima gente. Poi sono andato a Roma che c'era la messa in piazza San Pietro, ho scambiato un segno di pace con tutti perché me l'ha ordinato il Papa. Poi sono andato in Molise a salutare i miei cugini, ho partecipato a una maratona a Bari e sono passato a Catania per la festa del cannolo. Siccome si stava facendo tardi sono tornato in Veneto perché ero di turno in un locale molto frequentato dove io servo da bere. E questo è tutto quello che ricordo di ieri. Sì, ma porca miseria. è l'uomo più socievole del mondo. È l'opposto di me. Infatti, mentre andava dicevo, è l'opposto di Andrea Campagna, è l'opposto. Ma proprio diametralmente. Certo, vedi, tutta questa gente che incontra, che fa. Tra l'altro, tu che giustamente dici, ultimamente ho vissuto nella cabina di commento Eurosport, e lo smart working è una realtà in questo periodo, e quindi non vedo neanche quelle persone, quelle due o tre persone che normalmente vedrei. Straordinario. Non vedo neanche loro. Allora, abbiamo detto prima che questo mese sei riuscito un giorno a fare 9 ore e mezza di telecronaca su 11 ore. Sì, in un arco di 11 ore. Ma a te non è mai capitato un inconveniente della diretta, tipo a me è capitato una volta il singhiozzo, che non riuscivo ad andare avanti perché avevo il singhiozzo ed era non ti è mai capitato? No, sai che ormai faccio da tanti anni questo lavoro. Perché qualche giorno fa al TG5 è successo. Un ascoltatore o ascoltatrice ce l'ha chiesto su WhatsApp, che voleva il video di Domitilla. Fateci sentire Domitilla, eccola qua, Domitilla Savignoni. L'effetto virus sulle borse è drammatico, è stata la peggiore giornata di una settimana, da dimenticare. Scusate, a tra poco. Capita. Empatia. Sì. Tanta empatia. Capita. Capita. Sì, qualcosa del genere, si singhiozzo no, qualcosa del genere per forza. E certo che poi se stai parlando del prima virus. Poi succede. Sì, lì ti puoi anche coinvolgere. Stai parlando del virus e ti capita questa cosa qua, è veramente un po'. Allora, dai, abbiamo tempo per un ultimo video. Chiedo a Filippo. Filippo, ci fai sentire quello dei Pantellas? Come le donne affrontano il virus? Eccolo qua. Oddio, non sto bene. Ma quanto ho? 40 di febbre. Beh dai, devo fare un sacco di cose oggi. A lavorare 12 ore, fare una conference call su Skype, portare fuori il cane, fare le unghie, farmi da mangiare e poi se avanza un po' di tempo faccio una bella corsetta, no? Dai, un po' siamo così. Anch'io. A differenza della febbre, che sono apiretico. Esatto. Ah sì, perché noi qui adesso, cioè, nel Palazzo del Sole 24 ore, abbiamo la misurazione obbligatoria della temperatura, perché così quando uno ha la febbre non entra nell'edificio. Insomma, è una misura di sicurezza, eccetera. Tu hai risposto al signore che controlla la hai febbre, detto, guardi, faccio pure. Sono apiretico. Sono apiretico, fantastico, fantastico. Non ho mai avuto la febbre alta in vita mia. Ho avuto altri guai, Sono apiretico, esatto, vabbè, è straordinario. Allora, è il momento dei saluti. Abbiamo cercato un po' di sorridere perché il momento è difficile, ma bisogna affrontarlo con forza, senza panico. Quindi, tanto avete in casa tutto tranne le penne lisce. Un ascoltatore mi ha chiesto: ma che cosa si fa? Si è capito cosa si fa con le penne lisce? Io l'ho chiesto allo chef Bruno Barbieri, che ha detto che con le penne lisce si fa la pasta al forno e la pasta imbottita. Quindi, ecco scoperto qual è l'arcano delle penne lisce. Per questo sabato è tutto. Grazie ad Andrea Campagna, grazie a Filippo Oreggi in regia, grazie ad Alessandro Schirano in redazione. Al prossimo sabato. Ciao! Ciao a tutti, ciao Marta. Le mascherine me le metto quando fa le rapine e basta.